100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La lettera più attesa degli ultimi anni, in un periodo in cui le lettere non le scrive più nessuno, è finalmente arrivata e ci riferiamo chiaramente alla lettera inviata ieri dal governo greco alla Commissione europea. E allora, al di là dei dettagli, il fatto che la Grecia si sia impegnata ad andare avanti con le privatizzazioni già avviate, a rivedere e aumentare il salario minimo solo dopo un via libera da parte di Bruxelles e adottare solo due misure sociali tra quelle promesse, dicevo, al di là di questo, cerchiamo di capire chi abbia vinto e chi abbia perso in questa partita interminabile, un braccio di ferro che dura da settimane. Il primo vincitore sicuramente è il fronte del no, capeggiato dalla Germania, ma che questa volta non aveva solo la Germania dietro di sé. Tutti i paesi dell'Unione Europea infatti sono in qualche modo creditori della Grecia e da più parti si è cercato, per diversi anche obiettivi, di mantenere la fermezza della linea del no. Il secondo vincitore è il mercato. Gli operatori finanziari ieri hanno festeggiato la lettera inviata che sostanzialmente pone fine alla guerra tra Atene e Bruxelles. E la borsa di Atene ha guadagnato quasi il 10%. Lo sconfitto chi è? Beh, lo sconfitto è sicuramente Tsipras e Varoufakis. Ed ora il rischio di un boomerang con un elettorato greco che si era illuso di poter ottenere di più è veramente dietro l'angolo. Deve essere anche un monito per altri partiti, pensiamo a Podemos in Spagna, su quanto possa costare promettere tanto e quanto poi difficile sia ottenerlo se si vuole restare dentro l'Unione Europea. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Il fisco italiano e Google, la multinazionale di internet, hanno fatto pace, anzi dovremmo dire si preparano a fare pace, visto che sia la società sia la Procura della Repubblica di Milano hanno smentito il raggiungimento di un accordo per il pagamento delle tasse che la società americana deve al fisco italiano. Si conferma però che tra il fisco italiano e Google ci sono delle trattative in corso e anzi che i due soggetti sarebbero vicini a un accordo sul pagamento delle tasse per le attività che Google svolge in Italia. Su queste attività la multinazionale ha finora pagato cifre davvero molto basse, meno di 2 milioni di euro all'anno. Ora il conto sembra destinato a salire, a diventare più pesante, anche se non pesantissimo, e dovrebbe arrivare a 64 milioni all'anno per gli ultimi 5 anni. Vedremo come andrà a finire, ma è sempre più evidente che il problema delle giuste tasse da far pagare alle multinazionali stia diventando un'emergenza per tutti i paesi. E sfruttando in modo aggressivo le norme fiscali, le imprese globali riescono a spostare i profitti dai paesi dove vengono prodotti ai paesi che offrono di fatto l'esenzione quasi totale dalle tasse. Per l'Italia anche altri giganti come Apple o come Amazon sono sotto osservazione. È una partita difficile, ma è evidente che una soluzione va trovata presto, perché nessuno può pensare di pretendere da una qualsiasi piccola impresa il pagamento di importi fino al 68% degli utili prodotti e regalare invece un salvacondotto di esenzione fiscale a società con fatturati miliardari. Puoi ascoltare i 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore ogni giorno alle 9 e alle 17 su RDS e su Radio 24.